sua terra. Signore, ascoltaci. Padre del cielo, che sei Dio. Signore, pietà. Di pietà di noi. Cristo, pietà. Cristo, ascoltaci. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Non torna ancora. Mi avete svegliato. Anch'io dormivo. Anch'io dormivo. Non torna ancora. Non sento venire nessuno. Dobbiamo tornare all'ospizio. Dobbiamo sapere dove siamo. Fa freddo da quando è partito. Qualcuno sa dove siamo? Abbiamo camminato lungamente. Dobbiamo essere assai lontani dall'ospizio. Ah, le donne sono di fronte a noi. Siamo sedute di fronte a voi. Aspettate. Vengo accanto a voi. Dove siete? Parlate, che senta dove siete! Qui! Siamo sedute sulle pietre! C'è qualche cosa fra di noi! È meglio rimanere seduti, ognuno al suo posto. Sento pregare dalla parte delle donne. Sì, sono le tre vecchie che pregano. Non è il momento di pregare. Pregherete fra poco, nel dormitorio! Vorrei sapere presto chi sono seduto! Credo di stare accanto a voi! Ma non riusciamo a toccarci! Eppure non siamo lontani l'uno dall'altro. Non sento tutti. Eravamo sei poco fa. Incomincio a raccapezzarmi. Interroghiamo anche le donne, bisogna saperci regolare. Sentite sempre pregare le tre vecchie? Sono insieme? Sono sedute accanto a me, sopra un masso. Io sono seduto sulle foglie morte. E la bella cieca dov'è? Vicino a quelle che pregano. Dov'è la folle? E suo figlio? Shh, dorme, non lo svegliate. Come siete lontana da noi, vi credevo di fronte a me. Sappiamo presso a poco tutto quello che c'era da sapere. Discorriamo un poco aspettando l'arrivo del prete. Ci ha detto d'attenderlo in silenzio. Ma non siamo mica in chiesa. Voi non sapete dove siamo. Ma io ho paura quando non parlo. Non sapete dove è andato il prete. Mi sembra ci lasci soli troppo a lungo. Diventa troppo vecchio. Sembra che da qualche tempo non ci veda più. Non vuole confessarlo per paura che qualcun altro prenda il suo posto fra di noi. Ma credo non ci veda quasi più. Avremo bisogno di cambiare guida. Egli non ci ascolta più e noi siamo troppo numerosi. In tutta la casa ci sono soltanto le tre religiose e lui che vedono. E sono tutti più vecchi di noi. Sono certo che ci ha perduti e che cerca la strada. Dov'è andato? Non è il diritto di lasciarci qui. È andato molto lontano. Credo abbia parlato seriamente alle donne. Non parla più che con le donne. Forse che noi non esistiamo più. Dovremmo pur lagnarci qualche giorno. E con chi vorreste lagnarvene? Non so ancora. Vedremo. Dove è andato dunque? Era stanco d'aver tanto camminato. Credo che si sia seduto un poco fra di noi. È molto triste e molto debole da qualche giorno. Dopo la morte del medico. Ha paura. È solo. Non parla quasi più. Io non so che cosa sia accaduto. Voleva uscire assolutamente. Diceva di voler vedere l'isola un'ultima volta sotto il sole, prima dell'inverno. Sembra che l'inverno debba essere molto lungo e molto freddo. E che dal nord già incomincino a scendere i ghiacci. Egli era molto inquieto. Sembra che temporali dei giorni scorsi abbiano riempito il fiume e che tutte le dighe siano scosse. Diceva anche che il mare lo spaventava. Che si agita senza ragione e che le coste dell'isola non siano più abbastanza alte. Voleva vedere, ma non ci ha detto quello che ha veduto. Ora credo che sia andato a cercare un po' d'acqua e un po' di pane per la folle. Ha detto che sarebbe andato assai lontano. Bisogna aspettarlo. Egli mi ha preso le mani partendo e le sue mani tremavano come se avesse paura. Poi mi ha baciata. Gli ho chiesto che cos'era accaduto. Mi ha risposto che non sapeva. Mi ha detto che il regno dei vecchi stava per finire. Che voleva dire dicendo ciò? Non l'ho compreso. Mi ha detto che andava dalla parte del faro. C'è un faro? Sì, sì, al nord dell'isola. Credo che noi non ne siamo lontani. Diceva di scorgere la luce del fanale fin qui nelle foglie. Non mi è mai sembrato più triste di oggi e credo che piangesse da alcuni giorni. Non so perché, ma piangevo anch'io senza vederlo. Non l'ho sentito andarsene, non l'ho più interrogato. Sentivo che sorrideva troppo gravemente. Sentivo che chiudeva gli occhi e che voleva tacere. Ha detto due o tre volte buonanotte andandosene, come se andasse a dormire. Io capivo che mi guardava dicendo buonanotte. La voce si muta quando si guarda qualcuno fissamente. Non si va così verso il mare alla sua età. Siamo vicini al mare. Sì. Tacete e l'udirete. Signore, pietà. Di pietà di noi. Cristo, pietà. Unico Dio. Cristo, io odo solo le tre vecchie che pregano. Cristo, pietà. Tacete. Cristo, pietà. Ascolterete attraverso le loro preghiere. Siamo al sole ora? No. Credo che sia molto tardi. Che ora è? Non so, nessuno lo sa. C'è ancora chiaro? Io credo che sia scurissimo. Quando c'è il sole, vedo una linea azzurra sotto le palpebre. Ne ho vista una, molto tempo fa, ma ora non vedo più nulla. Io so che è tardi quando ho fame, ed ho fame. Ma se guardate il cielo, forse ci scorgerete qualcosa. Non so se siamo sotto il cielo. La voce risuona come... come se fossimo in una grotta. Secondo me risuona così perché è sera. Mi sembra di sentire sulle mani il chiarore della luna. Credo che ci siano le stelle. Le sento. Anch'io. Io non odo alcun rumore. Io odo solo il rumore dei nostri respiri. Credo che le donne abbiano ragione. Io non ho mai sentito le stelle. Neppure io. Sentite, cosa c'è sopra di noi? Sentite! Qualche cosa è passato fra il cielo e noi. È un rumore che non conosco, voglio tornare all'ospizio. Bisognerebbe sapere dove siamo. Ho cercato di alzarmi, non ci sono che spine intorno a me. Io non ardisco più di stendere le mani. Bisognerebbe sapere dove siamo! Io da molto tempo non sento che l'odore delle foglie morte. Qualcuno di noi ha visto l'isola una volta e sa dirci dove siamo. Eravamo tutti ciechi quando siamo giunti qui. Noi non abbiamo mai veduto. Io ho visto il sole quando ero giovanissimo. Anch'io molti anni fa quando ero bambina. Ma ora non me ne ricordo quasi più. Perché ogni volta che c'è il sole vuole che usciamo? Chi se ne accorge? Io non so mai se passeggio a mezzogiorno o a mezzanotte. Io preferisco uscire a mezzogiorno. Allora, immagino una gran luce e i miei occhi fanno grandi sforzi per aprirsi. Chi mi ha toccato il gomito sinistro? Non vi ho toccato, non vi posso raggiungere. Vi dico che qualcuno mi ha toccato il gomito. Non uno di noi. Dio mio, diteci dunque dove siamo. Non possiamo aspettare eternamente. Come siamo lontani dall'ospizio? È mezzanotte. È mezzogiorno. Non lo so, ma credo che siamo all'ombra. Non mi raccapezzo più. Abbiamo dormito troppo a lungo. Ho fame. Abbiamo fame e sete. Siamo qui da molto tempo. A me sembra di essere qui da secoli. Sentite, sentite, non siamo soli qui. Qualcuno ci ascolta, è tornato. Non so cosa sia, è sopra di noi. Gli altri non hanno sentito nulla. Voi tacete sempre. Noi ascoltiamo ancora. Sento delle ali intorno a me. Dio mio, diteci dunque dove siamo. Comincio a capire dove siamo. L'ospizio è dall'altra parte del gran fiume. Noi abbiamo attraversato il vecchio ponte. Egli ci ha condotti a nord dell'isola. Forse siamo nella foresta che circonda il faro, ma io non conosco l'uscita. Qualcuno vuol seguirmi? Stiamo seduti, aspettate. Non sappiamo da che parte sia il fiume, intorno all'ospizio è pieno di stagni. Aspettate. Tornerà, deve tornare. Qualcuno di noi è nato nell'isola. Sapete pure che veniamo d'altrove. Veniamo dall'altra parte del mare. Ho creduto di morire durante la traversata. Anch'io, siamo venuti insieme. Siamo approdati per miracolo. Io vengo da un'altra parte. Dove venite? Ah, no, non so più di pensarci. Non me ne ricordo quasi più quando ne parlo. È stato tanto, tanto tempo. Faceva più freddo di qui. Io vengo da molto lontano. Dove venite, dunque? Non lo potrei dire. Come volete che ve lo spieghi? È troppo lontano da qui. È al di là dai mari. Vengo da un grande paese. Non potrei mostrarvelo che coi gesti, ma noi non ci vediamo più. Ho errato per troppo tempo, ma ho visto il sole, l'acqua, il fuoco, le montagne, le facce e certi fiori bizzarri. Non ce ne sono di simili in quest'isola. C'è troppo oscuro e troppo freddo. Non ne ho più riconosciuto il profumo da quando non vedo più. Ma ho visto i miei genitori e le mie sorelle. Allora ero troppo giovane per sapere dov'ero. Giocavo ancora sulla riva del mare. Ma come mi ricordo di aver veduto? Un giorno guardavo la neve dall'alto di un monte. Incominciavo a distinguere quelli che saranno infelici. Che volete dire dicendo ciò? Li distingo ancora qualche volta dalla voce. Poi, certi ricordi che sono più chiari quando non ci penso... Io non ho nessun ricordo. Qualcosa passa sopra di noi! Perché siete venuta qui? A chi lo chiedete? Alla nostra giovane sorella. Mi avevano detto che avrebbero saputo guarirmi. Egli mi aveva detto che un giorno avrei veduto e allora avrei potuto lasciare l'isola. Vorremmo tutti lasciare l'isola. Resteremo sempre qui. Diventa troppo vecchio. Non avrai il tempo di guarirci. Le mie palpebre sono chiuse, Ma io sento che i miei occhi vivono. Le mie sono aperte. Io dormo ad occhi aperti. Non parliamo dei nostri occhi. Non è molto tempo che voi siete qui. Una sera io ho udito dalla parte delle donne, durante la preghiera, una voce che non conoscevo. Capivo dalla vostra voce che eravate molto giovane. Udendovi, avrei desiderato di vedervi. Io non mi sono mai vista. Noi non ci siamo mai veduti. Ci interroghiamo e ci rispondiamo. Viviamo insieme. Stiamo sempre insieme. Ma non sappiamo quello che siamo. Abbiamo un bel toccare con le due mani. Gli occhi ne sanno più delle mani. Io talvolta vedo le vostre ombre quando siete al sole. Non conosciamo la casa dove viviamo. Abbiamo un bel tastare, i muri e le finestre. Non sappiamo dove viviamo. Si dice che sia un vecchio castello. Molto tetro e molto miserabile. Non ci si scorge mai la luce se non nella torre. Dov'è la stanza del prete? Non occorre la luce a coloro che non vedono. Sono anni e anni che viviamo insieme e non ci siamo mai visti. Si direbbe che siamo sempre soli. Bisogna vedere per amare. Qualche volta io sogno di vedere. Io vedo solo quando sogno. Io non sogno di solito che a mezzanotte. Chi mi ha preso le mani? Qualche cosa cade intorno a noi. Qualcosa dall'alto, non so che cosa. Chi mi ha preso le mani mi era appena addormentato. Lasciatemi dormire. Nessuno vi ha toccato le mani. Chi mi ha toccato le mani? Rispondete all'alta voce, ho l'orecchio un po' duro. Non lo sappiamo, neanche noi. Sono venuti ad avvertirci. È inutile rispondere, non sente nulla. Bisogna confessare che i sordi sono molto infelici. Sono stanco di stare seduto. Io sono stanco di essere qui. Sento che siamo molto lontani gli uni dagli altri. Avviciniamoci un poco, comincia a far freddo. È meglio rimanere seduti, ognuno al suo posto. Non si può sapere quello che può esserci fra di noi. Credo di avere le mani insanguinate. Ho voluto alzarmi. Sento che vi chinate verso di me. Sento anche un altro rumore. È la nostra povera sorella che si frega gli occhi. Non fa altro, la odo tutte le notti. È pazza, non dice mai nulla. Non parla più da quando ha avuto il suo bambino. Pare che abbia sempre paura. Non avete dunque paura voi? Perché lo chiedete? Non so perché lo chiedo. Mi sembrava un tratto di udire piangere fra di noi. Ma non bisogna avere paura, credo che ci sia la folle. C'è un'altra cosa. Sono certo che c'è un'altra cosa, non ho paura soltanto per questo. Essa piange sempre quando allatta il suo bambino. Nessuna piange come lei. Si dice che in certi momenti essa ci veda ancora. Ma io non odo piangere. Bisogna vedere per piangere. Sento un profumo di fiori intorno a noi. Io non sento che l'odore della terra. Ci sono dei fiori intorno a noi. Io non sento che l'odore della terra. Ho sentito i fiori nel vento. Io non sento che l'odore della terra. Dove sono? Li coglierei. Sono alla vostra destra, alzatevi. Sento che spezzate degli steli verdi. No, vi prego, fermatevi. Non preoccupatevi per i fiori, pensate piuttosto al ritorno. Io non oso tornare sui miei passi. Ma non occorre tornare, aspettate. Com'è fredda la terra. Sono qui, ma non li posso raggiungere. Credo che siano dalla vostra parte. Credo di coglierli. Mi sembra d'aver visto questi fiori altre volte. Non ricordo più il loro nome. E com'è molle il loro stelo. Non li riconosco quasi più. Credo che siano i fiori dei morti. Io sento il rumore dei vostri capelli. No, sono i fiori. Buona! Credo che sia il mare. Il mare? Ma cos'è il mare? Lo sento intorno a noi, bisogna che sia un'altra cosa. Non pensiamo più al mare. Ma bisogna pensarci, perché ora ci raggiungerà. Non sapete che cosa sia. Io sento le sue onde come se stessi per immergervi le mani. Non possiamo rimanere qui. Forse sono intorno a noi. Dove andate? Non importa dove. Non voglio più sentire il rumore di queste acque. Andiamocene. Sento un altro rumore. Ascoltate. Qualcuno si avvicina. Viene a piccoli passi. Come fosse un bambino. Non rivolgiamogli alcun rimprovero oggi. No. Non mi sembra il passo di un uomo. Chi va là? Chi siete? Abbiate pietà di noi, è molto tempo che aspettiamo. Ah! Che cosa avete messo sulle mie ginocchia? Cos'è? È una bestia! È una bestia, un cane! È il cane. È il cane dell'ospizio. Il cane. Il cane. Il cane. Il cane. Il cane. Il cane. È venuto a salvarci. Egli ha seguito le nostre orme fin qui. Mi lecca le mani come se fossero secoli che non mi rivede. Vieni qui. Io non oso seguirlo. Neppure io. Perché no? Egli ci vede meglio di noi. Non bisogna ascoltare le donne. Qualcosa è cambiato nell'aria. Respiro liberamente, l'aria è pura adesso. È l'aria del mare che passa intorno a noi. Credo che ora farà chiaro. Credo che il sole si levi. Credo che ora farà freddo. Noi ritroveremo la via. Egli mi trascina. Mi trascina, seguitemi, torneremo a casa. Aspettate, dove siete? Aspettate, non seguitemi ancora. Aspettate. Tornerò. Ho toccato qualcosa di molto freddo. Che dite? La vostra voce non si ode quasi più. Ho toccato, mi sembra di toccare un volto. Che dite? Non vi si sente quasi più. Che cosa avete? Dove siete? Siete già così lontano da noi. Non so ancora cosa sia. Che sia. C'è un morto fra di noi. Un morto. Dove siete? C'è un morto fra di noi, vi dico. Ha toccato il volto di un morto. Qualcuno di noi deve essere morto improvvisamente. Vi prego, parlate, ditemi almeno quali sono i vivi. Vi prego, parlate. Perché vi preoccupate? Siamo qui. Non riesco a distinguere le vostre voci. Parlate tutti allo stesso modo, tremano tutte. Due non hanno risposto. Dove sono? Lasciatemi dormire, mi ero appena addormentato. No, non è lui. Dov'è la folle? È seduta accanto a me. Sento che vive. Credo che sia il prete. Venite, è ancora in piedi, venite. Ma allora non è morto. Dov'è? Andiamo a vedere. È qui. È lui. Sì, lo riconosco. Dio mio. E adesso che sarà di noi? Padre mio, siete voi? Padre mio, che cosa è successo? Che vi è accaduto? Rispondeteci, siamo tutti intorno a voi. Inutile. Non sento più il suo cuore. È morto senza dir nulla. Avrebbe dovuto avvertirci. Oh, com'era vecchio. Io tocco il suo volto per la prima volta. È più grande di noi. Ha gli occhi spalancati. È morto con le mani giunte. È morto così, senza una ragione. Mio Dio. Ignorava tutto ciò. Era ammalato da molto tempo, ma come ha dovuto soffrire oggi? E non si lamentava. Non si lamentava che stringendosi le mani. No. Non si può sempre capire. Non si può capire mai. Preghiamo intorno a lui. Inginocchiatevi. Io non so mettermi in ginocchio. Era ammalato. Non ci ha detto nulla. Ho sentito, andandosene, che parlava con la nostra giovane sorella. Che ha detto? Ella non vuole rispondere. Non vuole rispondere. Dove siete? Rispondete! L'avete fatto soffrire troppo. L'avete fatto morire. Non volevate più proseguire. Volevate sedervi sulle pietre della strada per mangiare. Avete mormorato tutto il giorno. Io lo sentivo sospirare. E si è perduto di coraggio. Era ammalato. Lo sapevate voi? Noi non sapevamo nulla. Non lo abbiamo mai veduto. Quando mai hanno visto i nostri poveri occhi morti? Egli non si lamentava mai. E ora è troppo tardi. Io ne ho visti morire tre, ma mai così. Ora è troppo tardi. E adesso? Che faremo? Che sarà di noi? Dov'è il cane? È qui! Non vuole allontanarsi dal morto! Dove siete? Qui! Sono qui! Ci siete tutti? Avvicinatevi a me! Dove sono le vostre mani? Fa freddo! Come sono fredde le vostre mani? Che fate? Mettevo le mani sugli occhi! Mi sembrava che ora avrei visto all'improvviso! Chi piange così? È la folle che singhiozza! Non conosce la verità! Credo che moriremo qui! Qualcuno verrà, forse! Penso che le religiose usciranno dall'ospizio! No, loro non escono mai la sera! Non escono mai! Gli uomini del faro ci scorgeranno! Loro non scendono mai dalla loro torre! Forse ci vedranno! Guardano sempre dalla parte del mare! Fa freddo! Sentite le foglie morte! Credo che geli! Com'è dura la terra! Io sento alla mia sinistra un rumore che non so spiegarmi! Il mare geme contro le rocce! Pensavo che fossero le donne! Sento il ghiaccio! ghiacci che si spezzano sotto le onde. Chi trema così? Ci fa tremare tutti sulla pietra. Non posso più aprire le mani. Sento ancora un rumore che non riesco a comprendere. Ma chi trema così? Ci fa tremare tutti. Deve essere una donna. Deve essere la folle che trema più forte di tutti. Ma non sento il bambino. Credo che proprio ancora. Soltanto lui può vedere dove siamo. Io sento il vento del nord. Non ci devono essere più stelle, forse nevicherà. Se qualcuno di noi si addormenta, bisogna svegliarlo. Ma io sonno. Sentite, sentite le foglie morte. Credo che qualcuno venga verso di noi. Non verrà più nessuno. Il freddo verrà. Io non sento che l'odore delle foglie morte. Sento camminare molto lontano da noi. Io non sento che il vento del nord. Vi dico che qualcuno viene verso di noi. Ho sentito un rumore di passi, molto lenti. Credo che le donne abbiano ragione. Che cosa cade di così freddo sulle mie mani? Nevica! Stringiamoci gli uni agli altri! Nevica! Per Dio, fate un po' di silenzio! Si avvicinano, ascoltate! Il bambino piange. Egli vede! Deve certo vedere qualche cosa se piange! Io voglio andarle incontro. Fate attenzione! No, come piange? No, shh! Che c'è? No, non piangere, non aver paura, non c'è nessun pericolo. Siamo qui noi, siamo qui intorno a te. Che cosa c'è? No, non piangere, non aver paura, non c'è nessun pericolo. Siamo qui noi, siamo qui intorno a te. Che cosa vedi? Che cosa vedi? Il rumore dei passi si avvicina da questa parte. Ascoltate dunque, ascoltate. Sento il fruscio di una veste sulle foglie morte. È una donna. Sono passi. O forse il mare nelle foglie morte. Ma no, sono passi. Adesso lo sapremo. Ascoltate dunque le foglie morte. Io le sento quasi al nostro fianco. Ascoltate. Che cosa vedi? Da che parte guarda? Egli segue sempre il rumore dei passi. Guardate. Quando lo volgo dall'altra parte, egli si rivolge per vedere. Egli vede. Deve certo vedere qualche cosa se piange. Alzatelo dunque sopra di noi, perché possa veder meglio. Scostatevi. I passi si sono arrestati fra di noi. Sono qui fra di noi. Chi siete?